Esattamente nell'anno 1900, sulle pagine della nuova antologia di lettere, scienze ed arti, Cesare Lombroso pubblicava un saggio dedicato ai rapporti tra la delinquenza e la bicicletta. In esso, nella consapevolezza che ogni nuovo meccanismo, cito testualmente, ogni nuovo meccanismo che entri nei congegni della vita umana aumenta le cifre e le cause della delinquenza come della pazzia, in esso Lombroso analizza furti, grassazioni e delitti vari di cui la bicicletta è stata il mezzo o lo scopo. Gente che ruba e scappa, grazie alla bicicletta, e gente che ruba e scappa per potersi comprare una bicicletta, senza dimenticare coloro che rubano biciclette scappando sulle medesime. In quello stesso anno l'esposizione universale comprendeva anche, finalmente, una sezione dedicata all'automobile. L'anno prima Giovanni Agnelli aveva fondato quella che diventerà presto la Fiat, e già da 5 anni il signor Diesel aveva costruito il suo motore. E visto che da lì in avanti il processo proliferativo diventerà praticamente inarrestabile, per giungere ai giorni nostri in cui perfino il sol dell'avvenire del socialismo, per darsi un contegno internazionalista, pensa bene di contribuire al bene dell'umanità tutta costruendo, che so, un'autostrada in Somalia, visto che ormai si preferisce tenersi l'aria inquinata e il cammino impedito piuttosto che rinunciare all'automobile, ecco che le preoccupazioni di Lombroso sembrerebbero destinate ad una effimera durata. Semmai, a partire dagli Agnelli per passare ad Al Capone per finire a tutti noi, semmai sembrerebbe legittimo preoccuparsi del rapporto fra criminalità ed automobile, semmai. Ma è di oggi la notizia sulla rapina al banco di Napoli di via Pergolesi. Un rapinatore di mezza età si è presentato armato allo sportello e con mezzi particolarmente convincenti si è fatto elargire la modica somma di 80 milioni, assolutamente nulla in confronto a quanto si erano fatto elargire quegli stessi socialisti dell'autostrada in Somalia dal Banco Ambrosiano, usufruendo evidentemente di mezzi ancora più convincenti. Se una rapina modesta o meno che sia, non esce dal paradigma metropolitano della vita quotidiana, questa rapina lombrosiana di ritorno notizia la fa già, perché l'audace rapinatore è fuggito in bicicletta. Acuto analista dei problemi della mobilità urbana, più meritevole lui di far l'assessore al traffico di tanti altri, comprendendo a fondo la distinzione aristotelica di potenza e atto, ha scelto un mezzo di fuga snello, pulito e silenzioso, per sgattaiolare via negli angusti spazi rimasti fra gli altri mezzi tozzi, sporchi e rombanti. Audace e fortunato, perché ci vuole fortuna al giorno d'oggi a Milano a lasciare la propria bicicletta per la strada, sia pure di fronte ad una banca, e ritrovarla.